Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Io conoscevo un venditore di divani, inventore dilettante, che è andato avanti per 50 anni cercando il moto perpetuo. E poi che fine ha fatto? E poi ha continuato a vendere gli ultimi divani e si è disperato. Vabbè, il nostro ascoltatore è vicino alla disperazione. Benvenuti a Mebius, i titoli e poi incominciamo dal moto perpetuo. Che cos'è il moto perpetuo? Questa settimana rispondiamo alla domanda impossibile di Giuliano. Capre che urlano come esseri umani. Ippopotami che ruggiscono come leoni. Qual è la funzione della voce degli animali? A Bologna c'è un corso di laurea su verde e paesaggio. Verrà raccontato prossimamente nel giorno del fascino delle piante. Non si devono più mettere calamite dentro le mucche. C'è un nuovo modo per evitarlo. Per le malattie molto gravi, le terapie efficaci devono mettere insieme l'esperienza dei medici e quella dei pazienti. Le tecnologie multimediali oggi rendono possibile questa difficile confluenza. Vabbè, questa domanda sul moto perpetuo doveva arrivare. Sì, è arrivata. Giuliano è vicino alla disperazione come il tuo amico che vendeva divani. Perché? Sì. Perché sentiamo che cosa si chiede e poi diamo i contatti. Questa volta facciamo il contrario. Vorrei sapere qualcosa sul moto perpetuo, perché questo moto perpetuo a scuola ci insegnano che col secondo principio della termodinamica non esiste il moto perpetuo, ma però vedendo quello che succede, i pianeti continuano a girare intorno al Sole e gli elettroni continuano a girare intorno al nucleo, e quindi volevo capire come mai si conciliano queste due cose. Ecco qua, questa è la domanda di Giuliano, abbastanza complessa. I contatti li vogliamo dare adesso, Federico, dopo, quando vuoi. Allora, moebius@radio24.it se dovete mandarci un'email. Facebook, Moebius Scienza. Oppure moebius_, cioè il trattino basso, online per Twitter. Veniamo alla risposta più che altro. E andiamo da un fisico, ovviamente, dell'Università di Torino, Michele Caselle. Intanto buonasera. Buonasera a voi. Questo quesito è uno dei... È un classicone. Sì, un classicone, uno dei fondamenti della fisica, quindi sta a lei la responsabilità di risolvere, insomma, un po'. Però quest'idea, questa domanda qui del... Beh, ma allora come mai la Terra continua a girare intorno al Sole? Può incominciare da lì? Sì, no, ma in effetti l'osservazione dell'ascoltatore Giuliano da questo punto di vista è corretta, perché non c'è nulla di vietato, non si viola nessun teorema. Non c'è nulla che impedisce ai pianeti di continuare indefinitivamente a muoversi, e in generale a un corpo di continuare a muoversi di moto rettilineo uniforme. Anzi, addirittura questo è alla base della meccanica classica di Newton. Quindi un pianeta nello spazio si muove di moto perpetuo da questo punto di vista e non viola nessun principio. C'è un equivoco, secondo me, e l'equivoco è questo, che di solito quando si parla di moto perpetuo non si intende questo tipo di moto perpetuo, che è perfettamente accettabile, ma si intendono complesse macchine, meccanismi con pendoli, ruote che girano, che dovrebbero riuscire a produrre energia dal nulla, cioè dovrebbero poter continuare a muoversi e addirittura autoalimentarsi. Ecco, questo secondo tipo di moto perpetuo invece, questo sì, è impossibile, perché viola il secondo principio della termodinamica. Ok, per cui l'energia non si genera dal nulla, ecco. Esatto. Ci sono, io credo, due tipi di moto perpetuo che vengono di solito proposti. Il primo è quello più violento, cioè quello in cui viene appunto prodotta energia dal nulla. E questo è chiaramente impossibile, c'è un teorema che dice che l'energia deve essere conservata e quindi macchinari di questo tipo non possono esistere. C'è una seconda versione un po' più sofisticata, in cui non viene prodotta energia dal nulla, ma viene convertito calore in energia. Qui bisogna aprire una parentesi, perché questo è un aspetto molto importante. Uno dei risultati più profondi, più, come dire, significativi della termodinamica è il fatto che il calore è nient'altro che un'altra forma di energia. E quindi in linea di principio si può trasformare calore in energia e viceversa, e quando si brucia, che so, un combustibile, questo è esattamente... Motore, benzina, insomma. Esatto. Ora, questa equivalenza di calore e energia è quello che si chiama il primo principio della termodinamica ed è un risultato ben assestato. C'è però un altro principio molto importante della termodinamica, che è il secondo principio, che dice che non si può, come dire, che queste forme di energia hanno qualità diverse, sono a livelli diversi, e mentre si può usare, che so, energia chimica o energia potenziale per produrre calore, il viceversa non è possibile se non sotto alcuni vincoli. Quindi, sostanzialmente, per venire a noi, io non potrò mai prendere una certa quantità di calore e utilizzarla integralmente per produrre energia per spostare una macchina, ovvero non posso tornare indietro quando ho bruciato la benzina e ricostruire la benzina dal calore del tubo di scartamento. Certo, anche perché una parte del calore va a riscaldare il motore, per esempio, e quindi me lo perdo come energia. Esatto. Certo. Però voglio dire, il mio venditore di divani inventava delle carrucole con l'acqua, con delle biglie, ma lì è lo stesso, una parte, per quanto infinitesima, di calore va dentro il marchingegno e quindi va persa. Invece il nostro ascoltatore giustamente portava anche l'esempio delle orbite degli elettroni, per cui gli elettroni continuano a mantenersi intorno al nucleo. Allora, anche in quel caso lì è un po' come per la Terra, cioè c'è una generazione e una trasformazione di energia, però ecco, nulla si forma dal nulla, ecco. Questo è un caso interessante, questa osservazione, ed è un caso un po' diverso. Innanzitutto, sia nel caso del pianeta che nel caso dell'elettrone, non c'è produzione di energia, l'energia è costante. Nel caso del pianeta che si muove, ad esempio, nello spazio di moto rettilineo, questo pianeta ha una sua certa energia, l'energia cinetica, e questa la conserva nel moto, non viene né distrutta né creata. Questo è il motivo per cui questo moto può continuare all'infinito. E similmente anche nel caso dell'elettrone, l'elettrone che orbita intorno al nucleo ha una sua energia che è costante nel tempo. C'è però una differenza profonda e importante, e la differenza è questo, che l'elettrone segue le leggi della meccanica quantistica e non della meccanica classica. E questo significa, anche se questo può sembrare un po' strano, perché la meccanica quantistica è un po' esotica per noi che abbiamo un'abitudine a ragionare in termini classici. Questo significa che è un po' sbagliato, anzi è decisamente sbagliato, immaginare l'elettrone come una pallina che gira intorno al nucleo, come saremmo portati a fare. In realtà, quello che ci dice la meccanica quantistica è che l'elettrone è un'onda di probabilità, cioè è un po' come se fosse spappolato, cioè una nube. Quello che vediamo intorno al nucleo è la probabilità di trovare l'elettrone. Anche l'idea che ci sia una pallina che orbita intorno al nucleo è un po' un'immagine ingenua. Errata. Sì, certo. Però dobbiamo anche tenere presente che gli elettroni di cui siamo fatti in questo momento, io, lei, la mia collega Chiara, arrivano da qualche miliardo di anni, da qualche punto dello spazio, dell'universo, della galassia, no? Cioè, certamente. Effettivamente questi elettroni con i loro nuclei si mantengono. Questi atomi ci sono da sempre. Sì, certo. Assolutamente. Grazie Caselle, davvero complimenti. Così spero abbiamo che, chiarito insomma, tutto. Giuliano sia dorma sonni più tranquilli. Grazie. Molto bene, grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La cronaca a volte è molto cruda, ma bisogna avere il coraggio di diffonderla. Mebius è venuto in possesso della registrazione di una lite violenta, una colluttazione, ora ve la facciamo sentire e poi ne parliamo. Dunque, no, non era una lite fuori da un bar tra gente dell''Ndrangheta. Ma bensì in un ovile. Un ovile. Perché queste erano le voci di alcune caprette, di diverse specie in realtà di caprette. Un ascoltatore ci ha segnalato la presenza di questi audio e noi abbiamo detto, dobbiamo riuscire a capire perché, ma non lo fanno sempre. Non lo fanno sempre e soprattutto non lo fanno tutte anche. Anche tutte. Ecco, cioè, e poi da lì ci siamo un po' allargati, siamo andati anche nel resto del mondo animale. Sui versi rari fra gli animali. Ma allora, cerchiamo di capirci qualcosa insieme ad uno zoologo. Intanto diamo il benvenuto a Papic Genovesi. Ciao Papic. Ciao, buonasera. Ci diamo del tu perché sei anche un divulgatore, ma sei soprattutto ricercatore dell'ISPRA, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Insomma, abbiamo fatto un po' sentire agli ascoltatori questi versi di capre strangolate, invece in realtà no. Perché mettono gli ovini o anche le altre specie questi urli un po' umani, un po' strazianti? Un po' tanto umani. Questo era veramente impressionante quello che avete trovato voi. In generale, insomma, conosciamo tutti il più tranquillizzante belato delle pecore. Infatti. Ma diciamo, nel caso delle pecore e delle capre, i richiami che emettono spesso segnalano, come probabilmente in questo caso, una situazione di stress, o a volte chiedono aiuto. Poi molti animali gregari, come le pecore e le capre, si chiamano l'un l'altro proprio per rafforzare il legame di gruppo e quindi per assicurarsi il contatto con gli altri animali. A volte invece, quando poi invece ci sono predatori in giro, tendono a stare silenziosi, quindi sono animali che a volte, quando soffrono, quando hanno molta paura, non emettono grida, proprio perché potrebbero attirare i predatori. Sono intelligenti, e soprattutto il fatto che siano domestici o che magari vivano in cattività, come quelli in questo caso, perché il video poi lo metteremo sul sito www.moebiusonline.eu, si vede che insomma sono animali domestici. Anche questo potrebbe influenzare in qualche modo il loro cambiamento, perché molti animali, e le capre è stato dimostrato, evolvono il loro linguaggio anche a seconda dell'ambiente in cui vivono. Ad esempio, nella capra è stato trovato che all'interno del nucleo familiare possono sviluppare un loro dialetto, e quindi che i capretti che nascono dagli stessi genitori usano una lingua un po' diversa da quella degli altri nuclei. Quindi sicuramente negli animali domestici, addirittura a volte si ipotizza che possano in qualche modo anche essere influenzati poi dall'uomo, dal dialetto del contadino. Ma quello che tu dici è che, per esempio, sentono dei bambini che, lo sappiamo, tirano delle urla micidiali, e loro cominciano a pensare che ogni tanto possono fare la stessa cosa. Questo potrebbe essere, non lo sappiamo, non è certo. È vero che nel cane o nel gatto pure, che vivono a stretto contatto con noi, si è visto che i richiami che utilizzano, insomma, i loro versi sono diversi da quelli ovviamente dei cugini selvatici, e sicuramente c'è un effetto di influenza, se non imitativo, dell'uomo. E chissà se c'è un principio di emulazione anche ad esempio nell'ippopotamo, che quando è tranquillo grugnisce. Invece quando è in difficoltà, o soprattutto quando sta lottando con un conspecifico, ruggisce. Ma qui c'è un vecchio problema psicologico: l'ippopotamo vorrebbe fare il re della foresta. Vorrebbe essere il leone. Questo è il principio, Papic. Ma innanzitutto sapete bene che l'ippopotamo è, insomma, c'ha questa immagine così un po' da pacioccone, ma in realtà è ben più pericoloso del leone. Quindi i suoi versi sono versi da tenere, diciamo, da far prendere un pochino di allarme. Io la prima volta che l'ho sentito ho pensato che fosse una gara di motocross, il primo segnale che avete sentito. Insomma, perché... Dato che vivono in gruppo, spesso, soprattutto l'alba e il tramonto, si chiamano con questi versi, e in questo di nuovo tiene in qualche modo unito il gruppo, e quindi insomma può servire, come in altri casi, proprio a segnalare la presenza l'uno dell'altro. Poi gli attacchi, insomma le lotte tra ippopotami possono essere veramente feroci. Sì, infatti questo secondo audio, quello del ruggito, chiamiamolo così, che poi credo che si dica anche in termine scientifico che l'ippopotamo ruggisce o barrisce anche in alcune situazioni, sono istruita. C'è proprio il video in cui ci sono due grossi maschi dominanti che combattono aprendo la bocca in maniera veramente impressionante, ed emettono proprio questi suoni nel momento in cui combattono. Sì, tra l'altro, come dicevi tu prima, sono molto aggressivi, sono tra i pochi animali che facendo quelle lotte lì possono uccidersi, si fanno male tremendamente tra di loro. Cioè, sì, questo è, diciamo, non sono solo loro, può succedere anche tra i nostri cervi. Però è l'animale che provoca più morti in Africa, perché può essere veramente molto aggressivo, soprattutto se uno si mette tra lui e l'acqua senza accorgersene. Però la cosa del grido utilizzata nei combattimenti o nelle interazioni sociali e anche perché è un segnale abbastanza veritiero dello stato fisico degli animali. Quindi quando ad esempio un cervo bramisce, il bramito serve anche a indicare agli altri maschi e anche alle femmine la forza di un individuo, perché è un verso talmente forte che richiede un notevole sforzo fisico, e quindi le femmine riescono a distanza a dare una prima valutazione della forza di quel maschio e quindi tendono ad avvicinarsi. A questo proposito facciamolo sentire. Ma questa è una mucca. No, è un cervo. È una mucca con le corna. È un verso potentissimo. Lo si usa per contarli. I censimenti dei cervi si fanno di notte nella stagione degli amori tra settembre e ottobre, contando nella notte quanti maschi adulti fanno questo potentissimo verso, perché è veramente un verso che si sente a molti chilometri di distanza. È in generale o soprattutto usato per marcare il proprio territorio rispetto agli altri maschi. Però si è visto che le femmine che sentono questo verso sono più recettive, quindi sicuramente c'è anche l'effetto che dicevo prima, cioè che permette alle femmine di valutare la forza dei possibili la dominanza partner. Ecco, sì, certo. Infatti il ruolo nella stagione degli amori di questi versi, di questi suoni, è assolutamente fondamentale. Differenze. E poi ci sono tutte quegli animali invece che sono muti, non emettono suoni. Ma non emettono suoni che noi sentiamo spesso. Prima di tutto pensiamo a un cugino più piccolino del cervo, che è il capriolo, che ha un verso, tra l'altro per la sua mole, perché è piccolino, il capriolo fa questo forte abbaio che a volte può essere veramente impressionante, e lo fa di solito per avvertire i predatori che li ha sentiti, per cui insomma diciamo in qualche modo è un verso difensivo, di allarme. Però invece un verso quasi inudibile è quello che le femmine fanno per ritrovare i loro piccoli, i caprioletti, in primavera, perché i caprioletti vengono lasciati, finché non sono in grado di correre veloci dai predatori, vengono lasciati nei prati, le femmine si allontanano per non attirare predatori e qualche volta al giorno tornano per allattarli e emettono un sibilo quasi inudibile con cui si chiamano mamma e figlio per ritrovarsi. Ma poi ci sono anche tanti animali, come ovviamente i pipistrelli che conosciamo bene, ma anche molti roditori, che emettono dei suoni talmente su frequenze talmente basse che noi non li sentiamo all'uomo, e spesso sono anche inudibili per i loro predatori, per esempio per i rettili, per i serpenti. Sì. Quindi hanno un canale di comunicazione esclusivo che utilizzano solamente per comunicare tra di loro. Però la cosa più sorprendente è quella da cui eravamo partiti, cioè che ci sono dei versi che gli animali emettono con molta rarità e che quindi quando vengono fuori ci sembrano impossibili, ma fanno parte del loro repertorio musicale, insomma. Solo che sono rarissimi. Sono rarissime, ma diciamo esistono molti animali che hanno una struttura del linguaggio molto complessa, molto articolata. No? Ovviamente certo. Nessuno si avvicina al linguaggio umano, e alla fine non è che noi abbiamo delle strutture che ci permettono di far suoni particolari, abbiamo una struttura vocale molto normale negli animali, è solo che abbiamo sviluppato questa capacità di modularlo. E la modulazione del linguaggio è frequente in moltissimi animali, in molte scimmie, in molti primati, e questo permette di avere anche un ventaglio di espressioni molto importante. Pensate ad esempio che molti primati hanno un grido di allarme diverso a seconda del predatore che identificano, per cui certo. Questo permette ai loro parenti, ai loro congeneri di sfuggire in maniera più diversa a seconda del pericolo. I lemuri, le marmotte sono bravissime in questo, sbaglio? Esatto, le nostre marmotte ad esempio hanno come principali nemici i rapaci, per cui emettono dei fischi d'allarme insomma proprio mirati a questo. Però spesso pensiamo anche ai cercopitechi, insomma il cercopiteco verde hanno dei diversi gridi a seconda che il pericolo venga pronto dal terreno, dal cielo, sia un felide, e questo sicuramente dà un grosso vantaggio adattativo al gruppo, perché appunto ovviamente questi meccanismi sociali si sviluppano quando la socialità è più sviluppata. Bellissimo, anche gli uccelli potrebbero salire in cattedra su questo. Gli uccelli ovviamente entriamo in un mondo ricchissimo in cui il suono ha un'importanza essenziale, hanno sviluppato linguaggi anche molto complessi, accenti locali, vere e proprie lingue, e quindi insomma adesso noi siamo partiti dai mammiferi che a volte conosciamo meno come verso, insomma, rispetto a quello degli uccelli, che c'è più familiare. Certo. Poi si arriva ai pappagalli che dicono: com'è brutta la tua fidanzata. Che imparano a... che distruggono dei rapporti. Io devo dire che quasi tutte le mattine mi svegliano i pappagalli, che oramai qui a Roma sono forse tra le specie più diffuse, con un verso ben più acuto di quello di quanto è brutta la tua fidanzata. Per cui, insomma, siamo oramai circondati da versi anche sì, che non conoscevamo fino a qualche è anno vero. Fa. Bene, io farei tutta la puntata con Papic, Federico. Con Papic. Invece no. Faremo una seconda puntata, direi, tutta sui Versace dei mani. Potremmo fare mezz'ora. Sempre con piacere. Grazie, a presto, grazie, buon lavoro. Un abbraccio, ciao, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oh, come noi abbiamo intitolato questo servizio? L'abbiamo intitolato con: non si devono più mettere calamite nello stomaco delle mucche, c'è un nuovo modo per evitarlo. E noi ogni tanto facciamo sì, questi titoli che sappiamo che la gente non capirà niente. Perché... Sì, devo dire che anche noi all'inizio eravamo un po' interdetti, perché anche noi abbiamo scoperto questa cosa per cui esiste un meccanismo per cui vengono inserite delle sfere, no? Adesso ce lo facciamo spiegare. Ecco. Ce lo facciamo spiegare da Francesco Forcolini. Buonasera, Forcolini. Buonasera. Buonasera. Lei è di un'azienda che si chiama? Che si chiama CAT, che produce questa calamita rotante. Oh, adesso arriviamo alla calamita rotante. Dunque, facciamo una cosa allora, Chiara. Sì. Entriamo... In una stalla. In una stalla. Senta, Francesco, entriamo in una stalla da 150 mucche? Sì. C'è un allevamento importante. È già un buon allevamento. Abbiamo uno spazio centrale, un corridoio, poi ci sono mucche a destra e mucche a sinistra che sporgono con la loro facciona, una roba così. Esattamente. Cioè la faccia, diciamo che è rivolta verso gli esterni, cioè verso le mangiatoie, o no? Esattamente. Ecco. Queste mangiatoie qui vanno riempite di fieno. Che loro mangiano di varie cose, ma insomma soprattutto di fieno, no? di erba di erba e mangimi vari, ma è erba miscelati. E mangimi vari miscelati. Questa... che il fattore in qualche modo fornisce loro, in che modo? Ci sono delle tecnologie, dei carrelli trasportatori, o si fa ancora tutto a mano col forcone? No, assolutamente, già da parecchi anni esistono dei carri miscelatori che sono autoportanti o trasportati dal trattore, che all'interno miscelano appunto vari mangimi a fieno, a mais, a semi di lino, cose di questo genere, che vengono triturati ed espulsi dalla macchina stessa attraverso un roulant e vengono posizionati esattamente nel corridoio dove ci sono le mangiatoie. Dove ci sono le mangiatoie. Le mangiatoie poi in realtà sono il pavimento della stalla stessa, perché la vacca tira fuori la testa e si mette a mangiare quello che viene dal carro distribuito lungo la mangiatoia. Okay. Passa il carro e gli mette giù. Questa roba che mangiano, questa erba, sì, questo fieno, questo mais, da dove arriva? Beh, arriva o dai campi coltivati direttamente dagli allevatori o viene acquistato da aziende le quali appunto sono intermediarie con i produttori, e può arrivare ovviamente anche dall'estero, la soia, il lino, mais, oltre che dall'Italia. Il punto è che questa miscela, non so come vogliamo chiamare, questo mangime è anche impuro. Essendo prodotto naturale coltivato nei campi, ed essendo i campi circondati da strade, paesi, diciamo, dove l'uomo opera comunemente, cantieri, cose di questo genere, contiene una quantità di prodotti ferrosi, dalla polvere fino, non so, alle cartucce dei cacciatori che attraversano i campi, a tutta una serie di chiodi, fili di ferro, delle staccionate e via di seguito. Ecco, questa è, diciamo, che la parte più pericolosa per il bovino, perché poi si troverà anche di tutto, plastica e così via, o no? Sì, naturalmente, ma quella poi in generale è molto evidente, no? Così come perché non so, le lattine, sì, i sacchetti, le lattine, cose di questo genere sono facilmente eliminabili. Quello che non è eliminabile e che diventa letale per Le mucche sono le schegge, sono i pezzetti di ferro, sono i chiodi, certo, e cose di questo genere che nessuno seleziona, che sono all'interno di questi mangimi e vengono distribuiti insieme al mangime. Insomma, è un po' una schifezza questo mangime. Come si fa qua, però, per ovviare in qualche modo a questo disastro? No, perché insomma, loro lo mangiano e non stanno bene. Assolutamente, assolutamente, soprattutto le cose più pericolose sono appunto le schegge, sono i pezzetti di filo di ferro, i chiodi, cose che procurano agli stomaci delle mucche evidentemente delle peritoniti che sono quasi sempre letali poi. Come ma fino si ad fa? Oggi hanno appunto i veterinari in particolare consigliavano queste calamite che vengono introdotte proprio all'interno dello stomaco della mucca. Qui ci quindi spieghi oltre bene, al ferro si devono mangiare anche la calamita. Esattamente, che dovrebbe trattenere, cioè impedire che queste schegge pericolose girino, queste componenti ferrose girino nell'organismo producendo lacerazioni che poi possono diventare ma come fa? Com'è che questa cosa? Cos'è? Intanto viene infilata mettendo una mano, come fanno spesso i veterinari, dentro la bocca della mucca, ma cos'è che gli mettono dentro? Viene ritenuta, sono dei cilindri magnetici che poi restano per tutta la vita all'interno dello stomaco dell'animale. Non viene rimossa ogni tanto perché bisognerebbe fare operazioni. Assolutamente, assolutamente. Difatti poi sulla distanza questa cosa produce anche disturbi all'animale. Dopo qualche anno, a volte anche meno, l'animale muore. Sì, diciamo che è una mezza soluzione. Esattamente. Ecco. Vabbè, veniamo invece alla tecnologia che evita, diciamo, anche questa mezza soluzione e che arriva a una soluzione 100%. Ma noi abbiamo messo a punto questo prodotto che è un brevetto, fra l'altro, è stato brevettato 2 anni fa e che è messo all'uscita della bocca del carro, cioè laddove il mangime viene espulso per essere poi direzionato verso la mangiatoia, ruotando crea una sorta di camera magnetica che trattiene tutto ciò che è ferro, leghe ferrose, metalli appunto che possono essere trattenute dai magneti. Nuovo di Colombo. No, tra l'altro appunto senza togliere niente alla genialità della cosa, perché nessuno ci aveva mai pensato di metterlo all'ingresso? Ma avevano pensato anni fa, quasi 20 anni fa, di mettere all'uscita, all'esterno, dove cade il sul carro, ma dove cade il mangime, delle piastre magnetiche. Ma queste piastre ovviamente hanno una capacità di attrazione di qualche centimetro, mentre l'uscita dalla bocca del carro ha un'apertura di 30-40 centimetri. Certo, no? si e quindi nessuno aveva mai pensato di creare un meccanismo che potesse filtrare tutto il mangime che esce. Io credo che se avessimo qui di fronte le svariate decine di migliaia di persone che ci ascoltano e chiedessimo chi sapeva delle calamite nelle mucche, secondo me è 1 su 1000. Pensavo che dicesse svariate milioni di mucche sarebbero contente, secondo me sì. Tutto il nostro ascolto di mucche, che sappiamo essere vastissimo, in questo momento è molto contento. Sta gioendo. Ma questa cosa qui, noi in Möbius parliamo di innovazione. Questa cosa qui non è che adesso sta dilagando, siamo agli inizi questo tipo di alternativa, si sta continuando largamente con la calamita infilata nello stomaco. Assolutamente, noi abbiamo cominciato ovviamente a pubblicizzare questo prodotto, siamo andati sia dai costruttori di carri, quindi quelli che vendono carro nuovo e che cominciano ad adottare proprio sistematicamente questo tipo di prodotto, ma soprattutto voi pensate che soltanto nel nord Italia, compresa l'Emilia Romagna, ci sono quasi 20-22 mila carri che tutti i giorni per tutto l'anno danno da mangiare agli animali. Chiodi. Sostanzialmente il rischio è proprio quello e naturalmente muoiono, cioè durante l'anno sono vari capi che purtroppo... No, infatti speriamo che la sua tecnologia abbia successo, guardi. Francesco Forcolini, grazie. Grazie a voi. Per vedere come funziona questo dispositivo andate al nostro sito www.moebiusonline.eu e troverete tutte le indicazioni. Io devo confessare la totale ignoranza, non sapevo che esistesse un corso di laurea in verde ornamentale tutela del passaggio. E nemmeno io, e tra l'altro non è un corso di laurea nuovo, ma esiste da 10 anni. Qui abbiamo Daniele Torreggiani in linea, buonasera Torreggiani. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Lei insegna in questo corso, insegna progettazione del verde privato e di comunità, no? In realtà sì, io sono un docente che mi occupo di analisi e rilievo territoriale in questo corso e collaboro anche con il coordinatore del corso di laurea, che è la professoressa Tassinari, nella organizzazione un po' del corso, perché sono segretario del consiglio. E in più sì, lei ha citato la progettazione del verde e di comunità, che è un po' una nuova sfida, è un nuovo corso di formazione che partirà a giugno di quest'anno, un corso intensivo per chi già lavora nel settore. Ma scusi, è a Bologna questo corso di laurea? C'è anche da altre parti? Il corso di laurea e il corso di formazione si svolgono nella sede didattica di Imola, della nostro Ateneo, che è l'Università di Bologna. Ma solo lì? Diciamo, non ne abbiamo da altre parti in Italia? Continuiamo con la nostra ignoranza. Pochissimi. È l'unico della regione Emilia-Romagna e effettivamente uno dei pochissimi nel panorama nazionale. Il corso di progettazione, che integra poi psicologia, architettura del paesaggio e piante ornamentali, è davvero unico. Festeggiate, spegnete le 10 candeline in un'occasione particolare. Esatto, perché quest'anno ricorreva il decennale del corso di laurea, l'inaugurazione del nuovo corso di formazione sulla progettazione del verde, ma anche la seconda edizione della Giornata del Fascino delle Piante, che è un evento internazionale che viene organizzato appunto in contemporanea. E quindi ci siamo detti, perché non combinare questi eventi in un'unica giornata di festa, di fatto, perché qui il Dipartimento di Scienze Agrarie della nostra università, insieme al Comune di Imola e all'Istituto Scarabelli, organizzano, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che da sempre dà un supporto prezioso a queste nostre iniziative scientifiche e culturali sul territorio, una vera e propria festa, perché sarà aperta a tutte le famiglie, la cittadinanza, ai nostri studenti ovviamente, a quelli delle scuole anche superiori e medie inferiori. La data, la data non ce l'ha detta. Il 18 di maggio, Federico. 18 di maggio, quindi sta arrivando. In questa giornata cercherete anche di promuovere, perché devo dire, sarebbe una cosa che in Italia dovrebbero assolutamente studiare un sacco di gente, no Chiara? In quanto è un, come dire, come si dice in termini di marketing, un asset importante del paese, noi potremmo fare un sacco di cose. Tra l'altro la cosa bella è che non è verde del proprio giardinetto, cioè è verde pubblico. Esattamente, qui noi trattiamo il verde un po' a tutte le scale, quindi dal piccolo giardino al parco più importante fino alla scala, come dici, territoriale, quindi effettivamente considerando tutte le valenze del verde, quella non solo estetica ma anche di migliorare la qualità degli ambienti di vita. Una cosa che a me affascina molto, ad esempio, è come vengono scelte le varie specie di piante nei vari giardini pubblici, cioè c'è un'attenzione a quelle che sono le specie autoctone piuttosto che a quelle che magari hanno bisogno di meno manutenzione, cioè bisogna conoscere molto bene la specie per poi abitare. Le specie, non solo, ma ovviamente anche proprio la composizione del progetto e le tecniche, quello che è la definizione di un vero e proprio piano di gestione e manutenzione del verde, e le tendenze verso cui si va sono esattamente quelle a cui faceva riferimento, quindi un verde che abbia il meno possibile bisogno di manutenzione, sempre più l'attenzione anche verso una gestione oculata delle risorse idriche, ovviamente è un tema molto attuale, e in generale al contenimento dei costi di gestione del verde. Le specie autoctone ovviamente sono, anche se in alcuni casi l'impiego di specie esotiche ovviamente anche culturalmente apprezzato e si giustifica, tendenzialmente l'impiego di specie autoctone è da preferire ovviamente. Ecco, ma siccome è tremendamente bello vedere piante di tutti i tipi, possiamo essere molto contenti di vedere i nostri platani, no? I nostri pini, va bene, però soprattutto in una città avere dei giardini nei quali si possono vedere delle cose giapponesi, delle magnolie, degli aceri, cos'è che si potrebbe introdurre facilmente che invece secondo voi tendenzialmente manca? E cos'è che c'è? Allora, tendenzialmente si può lavorare ovviamente sulla qualità del progetto a 360 gradi, quindi mi riferisco sia alla qualità compositiva del progetto, a una corretta scelta delle piante, perché poi scegliere le piante in modo corretto significa anche piante che hanno meno problemi da un punto di vista fitopatologico e via dicendo. a un'attenta considerazione dell'esigenza della committenza, quindi chiaramente per questo ad esempio il corso di formazione che stiamo per lanciare integra la psicologia ambientale, non perché ne abbiamo bisogno di docenti, a parte gli scherzi, ma perché consente di considerare in modo oculato sia le esigenze specifiche di vari segmenti di utenti, quindi parliamo di bambini, di anziani, di persone con problematiche particolari, ma anche in generale proprio di concepire il progetto in un modo consapevole degli esiti poi percettivi, ed è questo il motivo per cui tra l'altro questo corso ha il patrocinio di Uniscape, che è un network internazionale di università europee che si occupano di paesaggio, proprio perché è in linea con la Convenzione europea del paesaggio. E poi un altro aspetto da considerare è l'integrazione con l'architettura, ovviamente, che è molto in moda, quindi pareti verticali, tetti verdi, per degli edifici sempre più green. Ecco, allora ricordiamo, sul nostro sito metteremo sicuramente il collegamento ai vostri corsi di formazione e corso di laurea. Però allora ricordiamo la giornata internazionale del fascino delle piante 18-19 maggio. Grazie. A Bologna. Esatto. Buon lavoro. Grazie, buona serata a tutti gli ascoltatori. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Salutiamo subito il nostro ospite che si chiama Pierpaolo Bettetto. Buonasera Bettetto. Buonasera a voi. Buonasera. Allora Chiara, Bettetto, ce l'ha detto poco fa prima di andare in intervista, vuole che lo presentiamo in questo modo. Sì, paziente oncologico esperto. Le funziona questa presentazione? Sì, diciamo che io sono un paziente oncologico di vecchia data, perché nel 2004 sono arrivato a conoscere questa malattia in una maniera assolutamente casuale, e ho imparato e ho dovuto imparare un po' tramite la mia professionalità, perché io lavoro nel mondo internet da tantissimi anni e chiaramente ho sfruttato quello che sapevo, quello che conoscevo di internet, guardando tutto e cercando tutto, e là è stato il primo impatto negativo, e poi piano piano sono diventato esperto. Ecco, lei è ingegnere in realtà nella vita e appunto si definisce esperto perché ha pensato di utilizzare in questo modo la sua professionalità internet per in qualche modo anche aiutare gli altri, perché lei si è trovato appunto casualmente in questa situazione di diventare paziente, di essere affetto da una malattia anche piuttosto grave, e mette a disposizione la sua professionalità, ha creato proprio un circuito, quasi un social network, per poter portare un po' di aiuto e di appoggio anche alle persone malate che hanno la sua stessa malattia o con i sintomi simili. Sì, ricordo un compagno di avventure il quale mi ha detto: guarda, io sono soddisfatto e sono contento di avere uno sparring partner come te. Io quando mi sono trovato all'interno di questa malattia mi sono trovato disperso, da solo, abbandonato, non sapevo niente. Tre quarti dei medici mi chiedono: decida lei. Ma come posso decidere che non so niente? Io ho detto sì, a me è successa la stessa cosa, per cui sono qua per cercare di rendere disponibile la mia esperienza o l'esperienza di tanti che abbiamo passato, perché questa malattia è una malattia da cui ci si può uscire, da cui si e può che malattia ha? Mi scusi Bettetto. Ma questo è, io sono ho iniziato con un tumore all'esofago gastrico, quindi dopo che mi hanno tolto un paio di pezzi, dopo due anni ho avuto una recidiva molto importante, per cui io sono passato 7 operazioni e diversi cicli di chemio e radio, per cui insomma diciamo che sono esperto in questa materia dei tumori, proprio per avere ecco Pierpaolo, infatti è questo l'aspetto che a noi è sembrato più interessante di questo meccanismo che si è messo in moto e che anche vede una collaborazione con ospedale, mi pare che ci sia una piattaforma, usato un'infrastruttura Vodafone sulla quale è appoggiato il vostro servizio. Perché quello che viene fuori, io mi ricordo che lei mi ha detto prima dell'intervista, io ho fatto diversi cicli di chemio e moltissime persone pensano che sia assolutamente impossibile. Per curare questa malattia, insomma, c'è un 50% che arriva dai medici e un 50% che arriva dal confronto costante, dall'aiuto che può arrivare dai malati. Con questo sistema che utilizza la rete, quindi con i social network, questa terapia che arriva da voi diventa praticabile? Assolutamente sì. Diciamo che io ancora nel 2010 ho voluto, insieme a dei professionisti, dei medici e soprattutto all'Istituto Oncologico del Veneto qua di Padova, ho voluto cercare di far sì che ci siano più risposte e ci siano meno pazienti, tra virgolette, che si sentono abbandonati, perché poi magari non è così, però magari hanno bisogno, e dalle 2000 e passa richieste che abbiamo avuto in questo periodo, a partire da quella dicendo: Pierpaolo, voglio parlarti al telefono perché voglio sapere, dopo che hai subito questa operazione all'esofago, se parli ancora, da questo a quello di dire di gente che purtroppo non sa o ha problemi nella nutrizione. Noi cerchiamo di dare delle risposte. Abbiamo coinvolto soprattutto l'ambiente tecnologico, da una parte che io conoscevo, e quindi i tablet, gli smartphone e soprattutto Vodafone, proprio per cercare di metterci in contatto, di essere più in contatto diretti con questo. Quindi con la possibilità anche di fare una sorta di chat, di poter essere in comunicazione costante. Tutti gli strumenti utilizzati. Sì, noi utilizziamo, a partire dalla chat, a partire dal famoso Skype, dove abbiamo installato come fase di test all'interno di un ospedale, l'ospedale di Adria per l'esattezza, che è un ospedale piccolo ma che è interessantissimo, delle telecamere, delle tecnologie Skype, che poi i pazienti possono essere connessi direttamente, non solo, ma dall'ospedale, sono loro che chiamano ogni tanto e dicono: ma a che punto siete, come state? Lo stesso abbiamo coinvolto l'associazione di volontariato che io presiedo, che si chiama Chiama, in modo tale da poter avere una persona sempre disponibile via chat direttamente. Oltre a questo però ci siamo resi conto di un punto fondamentale, che oggi i pazienti oncologici sono tanti, ma dobbiamo anche imparare a diventare un bravo paziente, perché oggi abbiamo due cose che sono problematicissime. Uno è internet, perché internet, se io vado a vedere la mia patologia su internet, e lo dico, lo racconto sempre a tutti, io oggi non dovrei esserci, perché c'è scritto che la sopravvivenza a 5 anni è impossibile. Infatti, Bettetto, le stavo proprio per chiedere questo, nel senso che internet fornisce sempre delle risposte in questi frangenti molto dure, molto sbagliate, ecco, che affossano anche l'umore di un paziente. Parziale, voi avete invece deciso di utilizzare la rete in maniera completamente opposta, in maniera ottimistica, come ce la facciamo. O perlomeno sono due facce che ha sempre la rete, perché è tutto il contrario di tutto. C'è una parte che voi dite pericolosa, l'altra invece è un grandissimo strumento. Infatti, la parte pericolosa è quella, diciamo, delle cure alternative pericolose. Ne abbiamo centinaia di problematiche, in questo tipo di malattie è facile cadere, perché uno dice: ma questo costa, ma 600 euro, mi prendo dei sali, li metto nella vasca da bagno, cosa volete che siano 600 euro? Il problema è che molto spesso uno rinuncia a un percorso di cura, magari tradizionale, oppure non racconta ai propri medici curanti che sta comprando e sta utilizzando altre cose, quindi una cosa più sbagliata. Poi un'altra cosa fondamentale che capita su internet, e questo è bellissimo da raccontare, è che molta gente ha paura anche di quello che legge su internet, perché dice: ah, magari chissà cosa mi scrivono, chissà che cosa dicono, e invece cercare di dare un po' di assistenza su questo può avere un grande effetto. Noi vediamo che soprattutto quello che manca oggi molto nei pazienti oncologici, soprattutto in quelli che poi passano la malattia, che siamo in tantissime, è quello di sentirsi, diciamo, vicini ad altri, di sentirsi ascoltati, perché purtroppo questa malattia separa tantissimo. Noi abbiamo avuto dei casi addirittura dove gente non voleva più avvicinarsi, oppure famiglie distrutte per colpa di questa malattia. Purtroppo questo capita ancora, perché non è un'influenza che passa in un mese, è una malattia che passa, perché io lo testimonio che passa, però i tempi sono molto lunghi, questo coinvolge tutta la famiglia. Bisogna gestirla costantemente. Per trovarvi uno cerca Chiama? Allora, Chiama ha un numero diciamo di quelli con tariffa urbana, che è 848-800-155. Noi rispondiamo alle chiamate, abbiamo dei volontari, ma soprattutto abbiamo dei professionisti, medici, chirurghi, radioterapistiche rispondono e che, diciamo, serve più che altro, servono più che altro a dare delle esperienze, a dare delle risposte. Non facciamo mai diagnosi, perché assolutamente no, ma chi ha dei dubbi o chi ha delle incertezze, magari non ha coraggio di chiederlo al medico, può chiederlo a noi. Poi fondamentalmente, ovviamente, il nostro sito internet, che chiama .org, ma sotto ecco, aspetti, ci ripeta bene il sito: www.chiama col chiama, esatto, come okay. Chiamare, come verbo chiamare, chiama.org. E in questi giorni abbiamo presentato a un convegno mondiale di pazienti in tutte le malattie, si chiama Patient Academy Network, abbiamo presentato un corso di formazione utilizzando i tablet e gli smartphone e utilizzando una tecnologia molto interessante che si chiama Learning App, che è una delle prime applicazioni di mobile learning che io ho voluto fortemente, perché nel corso di formazione su tablet già per i pazienti non è semplicissimo, ma è fondamentale che vengano seguiti da un formatore, ne abbiamo creati 4-5 a disposizione, ma verranno seguiti piano piano per imparare a diventare dei pazienti esperti. Perché questo? Per evitare le problematiche su internet. Basta guardare su YouTube, scrivere cancro, ne viene fuori di tutti i colori, ma le prime 10 sono problematiche, sono alternative, cose da non fare, eccetera. E sotto sotto abbiamo costruito questo corso di formazione proprio per fare in modo che il paziente diventi più, il paziente naturalmente esperto, che diventi esperto, il paziente che vuole entrare. Noi crediamo di mettere in piedi questa ricerca scientifica e che nell'arco di quest'anno verranno reclutati circa 500 pazienti, sempre che Vodafone da una parte e l'Istituto Oncologico del Veneto e il CRO di Aviano ci seguano. In bocca al lupo, Betteto. Crepi. Grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Vi salutiamo, noi sì, di purtroppo. Mebius. Come li saluti tu, Chiara? E ciao, alla prossima settimana, direi. 7 giorni, qui, tutti, per Mebius.